anche quest'anno da bestia. Ed è appurato il mento, il fatto che sono un po' fragile, il più debole. E da studente normale sto diventando un fumetto per questa classe speciale. E anche se provo a reagire, anche se tento di gridare, non mi sente nessuno e tu mi devi aiutare. Sono sempre immerso qui nel mio mare di vergogna, meravigliato e forse un po' confuso da tutta questa indifferenza. Per non parlarti poi di quando anche davanti a lei non trovo il coraggio di non subire, di non sentirmi un coglione, l'unico idiota di queste sei ore. Devo trovare in fretta la mia soluzione per poi star meglio e ritrovare un bagliore. Dovrei reagire o almeno ci dovrei provare. Posso più aspettare.